24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Draghi pronti a tutto per salvare l'euro. Il numero uno della Banca Centrale Europea interviene sulla crisi della moneta unica. Nessun paese uscirà dall'eurozona, dice. Le borse gli credono e ripartono. Madrid più 6,06%, Milano più 5,62%. Nasce l'asse franco-spagnolo per attuare le decisioni europee. Germania sempre più nell'angolo dopo il taglio dell'outlook delle banche garantite dallo Stato. Michel Barnier presenta la proposta di direttiva sugli abusi di mercato. In casi come Libor bisogna prevedere la prigione. Nominato il primo rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani. Intesa fra Google e Antitrust Europea per evitare l'accusa di abuso di posizione dominante. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. L'euro è irreversibile, la Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto il necessario per salvare la moneta unica. Così si è espresso ieri Mario Draghi a Londra per la Global Investment Conference. To the extent that the size of the sovereign premium. La Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto quanto è necessario per salvaguardare l'euro e credetemi sarà sufficiente. Poche ma decise parole quelle che ha usato il presidente della BCE Mario Draghi cogliendo l'occasione della Global Investment Conference a Londra per fare la mossa tanto attesa. Tutti gli analisti guardano ora con forte interesse alle mosse successive di Francoforte confidando in una ripresa del programma di acquisto dei titoli di Stato dei paesi più sotto pressione quali Italia e Spagna. Una programma già adottato la scorsa estate, poi sospeso anche per contrasti interni alla BCE. E mentre gli occhi sono ora puntati al consiglio direttivo in programma tra una settimana, le borse hanno festeggiato la discesa in campo di Francoforte. Milano e Madrid superstar con rialzi ben oltre il 5%, Parigi oltre il 4%, Francoforte oltre il 2%. Crollano gli spread con il differenziale BTP Bund che chiude a 473. Draghi ha riconosciuto che l'eurozona ha fatto negli ultimi 6 mesi progressi straordinari, ha pronosticato un miglior funzionamento dei firewalls europei rispetto al passato e ha contrattaccato. L'area euro è più forte di quanto non le venga riconosciuto. Infine un accenno indiretto alla Grecia quando Draghi ha ritenuto inimmaginabile l'uscita di un paese dall'eurozona. Proprio in Grecia è giunto il presidente della Commissione europea Giuseppe Barroso che ha ribadito Atene deve restare nell'euro. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E le borse europee chiudono in territorio decisamente positivo dopo le parole di Draghi. Madrid guadagna il 6,06%, Piazza Affari il 5,62%, Parigi segna un più 4,07%, Francoforte più 2,36%, Londra più 1,28%. Mario Draghi mette il turbo alle borse europee con Milano e Madrid superstar con rialzi del 5-6%. Dopo le parole del presidente della Banca Centrale Europea che ha chiarito come l'euro verrà salvato a ogni costo, un'ondata di acquisti ieri è affluita sui listini e in particolare sui titoli finanziari duramente penalizzati nei giorni scorsi. Così Parigi ha guadagnato il 4%, Francoforte il 2,7% e Londra l'1,3%. A Piazza Affari il FTSE MIB è balzato del 5,62%. Le migliori a Milano, oltre a Mediaset, più 9,6%, sono state Montepaschi, Generali e Unicredit, tutte con rialzi superiori al 9%. Recuperano terreno anche le utility con A2A, più 7,4% ed Enel Green Power, più 6%. Mentre tra i titoli meno brillanti spiccano Fiat, più 0,9%, che sconta il momento difficile per l'auto europea, Tenaris, più 2,1% e Telecom, più 2,8% dopo lo stop della cedola e il taglio dei target della spagnola Telefonica. Sul resto del listino pagano Dazio Era, meno 5,2%, dopo l'ok all'aggregazione con Ace Gas APS, e ancora Fondiaria Sai, meno 5,8%. In forte calo, infine, lo spread BTP Bund, attorno a 475 punti base. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Ma restano le riserve per la difficile situazione economica. Da Confindustria in particolare arrivano previsioni poco ottimistiche. Secondo il centro studi lo scenario globale è ulteriormente peggiorato e in Italia la diminuzione del PIL proseguirà. Ieri il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha avuto un colloquio telefonico con il capo dello Stato italiano, Giorgio Napolitano, sui temi della crisi economica. Sentiamo Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria, a Focus Economia. Questo ritardo, come abbiamo osservato fino ad oggi, fino alle dichiarazioni del Presidente BCE Draghi che hanno ridato fiducia nell'euro, ha e quindi ridotto gli spread, avevano allargato appunto questi spread, che significa fondamentalmente in realtà un aumento del costo del credito per imprese e famiglie, uno scoraggiamento quindi a finanziarsi attraverso il credito, a fare acquisti importanti, vuoi rateali come le automobili, vuoi investimenti in case per quanto riguarda le famiglie, e per quanto riguarda le imprese invece i nuovi progetti, e la cui redditività spesso rischia di essere più bassa degli interessi richiesti dalle banche. E questo diciamo è in fondo l'origine del riprecipitare in recessione dell'Italia prima e dell'area euro nel suo complesso poi, e adesso negli ultimi mesi osserviamo diciamo un netto deterioramento anche delle condizioni, almeno nel manifatturiero tedesco. La manipolazione degli indici di mercato, come è avvenuto nel caso di Libor, sono comportamenti che devono essere sanzionati e nei casi più gravi con la prigione, lo ha affermato il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier nel presentare la proposta di direttiva rivista sugli abusi di mercato emendata appositamente da Bruxelles per l'appunto dopo lo scandalo Libor. Gli emendamenti presentati dalla Commissione propongono l'introduzione di sanzioni penali in tutti i paesi europei per punire gli autori delle manipolazioni dei tassi interbancari. Il greco Stavros Lambrinidis, ex ministro degli esteri di Atene e parlamentare europeo socialista, è il primo rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani. Lo ha nominato il capo della diplomazia Catherine Ashton. La tutela dei diritti umani rappresenta una priorità assoluta per l'Unione, ha spiegato la Ashton. L'incarico di Lambrinidis comincerà da settembre e durerà 2 anni. Google e l'antitrust europea hanno raggiunto un'intesa di massima che risparmierà il colosso statunitense di finire sul banco degli imputati per rispondere delle accuse di abuso di posizione dominante. L'anticipazione del Financial Times è stata confermata nella sostanza dal commissario per la concorrenza, Joaquín Almunia. Dopo 2 anni di indagini, Bruxelles aveva individuato anomalie nel modo con cui Google favorisce i propri prodotti nei risultati di ricerca e declassa i contenuti di potenziali concorrenti rendendoli meno visibili, oltre a imporre contratti che limitano lo spostamento della pubblicità verso altri motori di ricerca. La proposta di Google coprirebbe tutte queste aree. La Commissione europea valuterà in dettaglio il piano di aiuti al settore automobilistico del governo francese per reagire alla forte crisi in cui versa il gruppo Peugeot Citroën. Le misure annunciate da Parigi, infatti, ha sottolineato un portavoce dell'esecutivo comunitario, avranno numerose conseguenze su diversi settori di competenza europea, in particolare concorrenza e commercio, ma anche su mercato interno, industria e politiche sociali. Il piano francese prevede diverse misure e aiuti di Stato a sostegno della produzione di auto verdi, e questi dovranno essere in linea con le norme europee. Lo Stato italiano deve dimostrare di essere presente nei confronti di chi è stato colpito dall'attentato di Brindisi del 19 maggio, applicando la legge che prevede dei benefici per le vittime del terrorismo. È quanto chiede una lettera inviata al ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, dall'eurodeputata Sonia Alfano, per conto della Commissione per il Crimine Organizzato del Parlamento Europeo. Lo sport. Oggi iniziano le Olimpiadi di Londra. L'edizione 2012 dei giochi arriva a 40 anni di distanza da quella di Monaco, funestata dalla strage al villaggio olimpico dopo l'attentato di alcuni terroristi palestinesi nella sede della squadra di Israele. Il presidente del CONI, Gianni Petrucci, al microfono del nostro inviato Dario Ricci. Noi non facciamo nessun atto eroico, l'ho detto, facciamo solamente il nostro dovere, esercitiamo un diritto di ricordare una strage che è ancora sotto gli occhi di tutti e che purtroppo c'è stata in occasione di un'Olimpiade che dovrebbe essere proprio l'opposto, l'unione, la fratellanza. Lo ricorderemo al villaggio, lo ricorderemo in ogni circostanza, sapendo che non è contro quello che ha deciso il CIO. Il CIO ha fatto questa scelta, noi rispettiamo, ma facciamo di più. Cinema in chiusura. È stata presentata ieri a Roma la 69esima edizione della Mostra di Venezia, che come sempre ospiterà pellicole da tutto il mondo. Tre gli italiani in concorso, Bellocchio, Cipri e Francesca Comencini. Crisi e fondamentalismi i temi principali, come spiega il direttore Alberto Barbera al microfono di Marta Cagnola. Tra i tanti temi di questa mostra, quelli sono i due più rilevanti e più ricorrenti, ecco, certo. Il fatto che i cineasti di paesi diversi, di culture diverse, di sensibilità diverse, si mettono a raccontare storie per illustrare la crisi economica, che evidentemente è globale, colpisce tutti, eccetera, è un fenomeno sicuramente estremamente significativo, insomma. E poi non solo la crisi economica nei suoi, come dire, nella sua evidenza più esplicita, ma anche e soprattutto nei suoi riflessi sulla vita dell'individuo, sui rapporti familiari, sui rapporti sociali, sugli effetti devastanti che la crisi economica ha sull'insieme del tessuto sociale. Ecco, questo è, direi, il dato più rilevante. E poi i fondamentalismi con cui bisogna fare i conti, che sono fondamentalismi religiosi, politici, ma anche economici, che sono il vero tema delle società di oggi. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi in regia e da Paolo Panceni in studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.